sta lottando per un'economia di pace. Davanti a noi abbiamo Camp Derby, dove si trova il più grande arsenale militare all'estero dell'esercito statunitense. E adesso abbiamo CISA, il centro interforze studi applicazioni militari, che nel 2013 ha sversato 700 mililitri di acqua radioattiva nel canale del Navicelli. In questa giornata, non ancora conclusa, abbiamo attraversato molti territori sottratti alla comunità e molti che ci vorrebbero sottrarre costruendo questa nuova base. Questo territorio vive da decenni una grave e insopportabile sottrazione di spazio pubblico e di terreni per trasformarsi ogni giorno sempre di più in un hub logistico militare. Spazi che non vengono mai più restituiti alla città, perché, come abbiamo visto più volte, anche le caserme o le aree dismesse diventano oggetto di speculazione da parte delle lobby del cemento, togliendoli per sempre agli abitanti. Tante volte questa militarizzazione ci viene narrata come un'esigenza finalizzata a garantire la sicurezza. Noi pensiamo che questa sia una narrazione volutamente fuorviante, perché in un paese in cui ogni 3 giorni c'è un morto sul lavoro, in cui ogni 48 ore c'è un femminicidio, in cui ad ogni pioggia ci sono delle frane, in cui mancano i mezzi per spegnere gli incendi che divampano per mesi interi nei nostri boschi, pensare che la sicurezza si faccia con la militarizzazione è una presa in giro che respingiamo. La sicurezza non si fa con il filottinato e con i militari nelle strade, ma con politiche che partano dai bisogni delle persone e dei territori. I territori per noi sono fatti di relazioni, di storie, di persone che costruiscono comunità e che mettono al centro la cura. E non sono merce come pensa questa classe politica. Non si possono scambiare, non sono in vendita di loro offerente. E noi lo dimostreremo difendendo questo territorio con le unghie e con i denti fino a che ce ne sarà bisogno. Però sappiamo anche che quello che sta succedendo qui non è un'eccezione, ma la regola di un sistema che riproduce sistematicamente violenza, devastazione e guerre. Anzi, ne fa elementi costitutivi per tenersi in vita. Questa è l'espressione di un sistema che si rapporta in modo coloniale ai territori e alle comunità che li vivono. Per questa ragione, se in questi sentieri, tra questi campi, si materializza la violenza di un intero sistema, noi da questi stessi sentieri contestiamo non solo uno specifico progetto, ma questo sistema nella sua totalità, che cerca di calpestare i nostri corpi, i nostri desideri e cerca di silenziare le nostre voci. È per questo, e per questo non possiamo che opporci a questo progetto ovunque venga collocato, perché può cambiare il posto, ma non cambiano le dinamiche. Crediamo sia per questo motivo che il nostro appello, anche se diffuso in pochi giorni, è arrivato alle teste, ai cuori e alle pance di tante persone che oggi sono qui con noi per dire che queste strade o sono per tutte e tutti o non se ne fa niente, che non siamo in vendita e che ci sono ancora cose che i loro soldi non possono comprare. Queste cose siamo noi, la nostra dignità, le nostre relazioni, le nostre speranze, le nostre lotte, la nostra rabbia e la nostra gioia. Per questo e per molto altro andiamo avanti insieme, perché solo unite ci salveremo. Riempiamo le piazze e disertiamo la guerra. E ora lasciamo parola agli studenti e studentesse Novase. Ciao a tutti, noi siamo Student Novase e vogliamo condividere le nostre riflessioni rispetto ai luoghi che frequentiamo tutti i giorni, i luoghi della formazione, le università. Abbiamo visto strettamente legato il progetto della base militare di Coltano al tipo di formazione e alle relazioni che tutti i giorni viviamo e apprendiamo in università, così come negli altri ambienti della formazione, nonché alle contraddizioni che da mesi denunciamo al loro interno. Da qualche mese abbiamo scoperto e stiamo contestando le decisioni politiche della Regione Toscana, che ha scelto di abolire ogni diritto allo studio da qui a 2 anni, tagliando tutti i fondi del DSU, rendendo i nostri percorsi di studio precari e inaccessibili a molti e molte. Allo stesso tempo frequentiamo corsi, facoltà, progetti di ricerca sempre più finanziati da aziende belliche ed estrattiviste come Leonardo S.p.A. o Eni, che vincolano e determinano una ricerca e una formazione improntate alla devastazione dei territori e alla guerra.